giornata qual è stato quando ha bestemmiato, quindi non c'è più nulla da fare, però la sua paura era che da Roma gli togliessero la poltrona. Vabbè, giriamo il registro. Superata l'emozione che suscitano questi racconti, che non sono cronache, sono elaborazioni fatte dalle prime comunità dei cristiani, con alcuni testimoni oculari e altri passaparola. È legittimo allora a questo punto, anzi doveroso, come ascoltatori di questa parola di Dio, porsi due interrogativi. Perché Gesù fa questo? Quindi bisogna coglierne il significato. Seconda domanda, ma per quali delitti Gesù è condannato a morte? Gesù vive questa vicenda così come sono richiamate e ricostruite dai suoi seguaci, dalle prime comunità. Tra le risposte plausibili potrebbe essere: voleva mostrare che andava verso la morte, verso la sua ora, nella libertà e per amore. Non è che gli è andata male. È stato un caso. Il suo destino lo vuole Dio. Dio lo vuole. Quindi non poteva che finire così. Quindi Gesù muore così, notate, per necessità umana, cioè muore perché in un mondo dove il male è molto presente, in un mondo ingiusto, il giusto è rifiutato fino alla condanna, l'aveva detto. Quindi nessuna casualità. Aveva infatti detto: ma io do la mia vita nella libertà e per amore. E questa libertà e amore si fanno visibili, si analizzano i quattro delitti per cui viene condannato. Condannato con il consenso generale. Gesù è figlio del suo tempo, è un ebreo, ma a quale gruppo appartiene? Perché c'erano i sadducei che pensavano al culto del Tempio, c'erano i samaritani che erano gli schismatici, quelli brutti, sporchi e cattivi, i farisei, che erano un movimento spirituale con una forte identità radicale nell'esigenza della legge. Poi ve lo ricordate, imponete dei fardelli sulle spalle degli altri e voi non sapete. C'erano gli zeloti, a cui pare che facesse riferimento anche Giuda, movimento rivoluzionario. C'erano gli esseni, movimento spirituale critico con i sacerdoti del Tempio. Capite che qui già c'è una dialettica obbrobriosa. Con i pesi propri della legge, così come veniva portata dal Sinedrio. C'era anche Giovanni Battista ai margini, nel deserto. Perché è importante questo richiamo? Perché è all'interno di questo contesto che i delitti di Gesù vengono riconosciuti. La sera dell'ultima cena, una specie di polizia va nel tempio giudaico e su ordine dei sommi sacerdoti Anna e Caifa gli chiedono conto della sua predicazione. Allora il primo delitto è: difende la discontinuità nell'insegnamento della legge. Infatti Matteo riporta: aveva detto, avete udito che fu detto, ma io vi dico che. Quindi contro la legge corrente rivendicata dai sommi sacerdoti. Una delle infamie, andare contro i sommi sacerdoti. Gesù diceva: bisogna risalire all'intenzione del legislatore, cioè mettere il cuore dentro la legge, non la legge così. Rispecchi anche il radicalismo di oggi, eh? E questo perché ve lo dico io. Gesù mette al cuore della legge la persona. Sottolineo però che viola la legge non perché la trasgredisce, ma perché gli dà un cuore nuovo alla legge. E tutti quei grandi capi non capivano, bestemmiava. Un secondo delitto è: rompe il legame col territorio. Gesù, itinerante, non sentiva il legame tra fede e territorio, parrocchie, tutte quelle robe lì, no? La terra data agli uomini qualcosa da condividere. Lui era mandato tra le genti, tra i pagani, tra gli egoim, cioè gli umiliati. E questo urtava non solo gli ebrei, ma anche i romani. Allora il terzo delitto, vado veloce naturalmente, contro i legami familiari, i legami di sangue. Legami di sangue che avevano tutta una questione delle dinastie. E quindi scandalizza quando dice: ma chi sono i miei familiari? Coloro che fanno la volontà del Padre. Quindi coloro che entrano nella corrente delle buone relazioni, in libertà e amore. E l'ultimo delitto, il più infame, è contro il Tempio. È l'accusa più terribile, perché il Tempio rappresenta per gli ebrei il centro religioso, spirituale, luogo di sacrifici, luogo di sacrifici degli animali, dove si, secondo loro, si manifesta Dio, luogo di potere, in cui si legifera, dove si fanno gli affari del corpo. commercio finanziario, escludeva soprattutto le donne. I sensi, no, niente, era una battuta a proposito dei pellegrinaggi, che sono una bella cosa, ma vabbè, lascio perdere. Gesù compie il gesto di contrasto contro questo modo di considerare la casa del Padre. Soprattutto propone un volto diverso di Dio, quello della misericordia. Aveva detto: sarà distrutto il Tempio. Non ha mai fatto un sacrificio Gesù. Rompe la gerarchia, gli iniziati, le donne, i pagani, i samaritani, fuori tutti dal Tempio. E lui dice invece aprire. È un'accusa perché fa entrare gli impuri, tra virgolette, dentro nel Tempio. Mi fermo qui, concludendo dicendo: la terra intera fa risuonare un grido di nostalgia infinita che c'è nel cuore di ognuno di noi, di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino, di ogni vecchietto, che ha tra la mano la propria esistenza e cerca libertà e felicità. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà.